io ti sto bene. Alleluia. Dimmi. Ti dà giudizio chi ti dà punia. Questa è la nuova antenna che ho messo. C'è quella Ringo, però quella di 10 anni fa. Com'è? Ehi, a voglia tu. Va più che bene. Liscio sì. Va liscio, liscio, liscio. Liscio, liscio come l'olio. Com'è? Buono, buono tu. Va bene. Ma sono, come sono, con lo scala lì. Cosa tu? Detto che se lì a casa tua sono a fondo scala. 9,25 è abbondante, sì. Sì, già va bene, dai. È perfetto, KK, dai. A bomboletta. E beh, non so da un po' che non ti vedo. Come mai, Daniele? No, siamo in stand-by, Antu. Stand-by? Sono 4 mesi che non vi sei più in Kiwi. Ehi, forse anche 2 mesi in più di 4. Ehi, ma ci c'è qualcosa o non ti interessa più andarci? No, ci siamo messi in stand-by noi, Antu. Ah, però ci siete sempre, sì. Sì, virtualmente già ci siamo. Ah, cappa. Vabbè, vuol dire che avevate problemi e avete fatto bene. Cara, si conferma. Sì, mi ricordo che quello smitta di quell'apparecchio era un pochettino secco pure. Il minimo sarò, vai, 9 più 30 sarò da te, dai. Può essere, Anto, non lo so. Non lo saccio. Cara. Poi, ma già così come ti dico di sentire, fidati, che lo conosco bene, lo conosco. L'importante è che funga. Adesso sto guardando questo 48 che mi serve il finale e ciccia. Ragazzi, rubiati tu, ma lo stai vendendo? No, Antu, questo non lo sto vendendo. 48 sto parlando. Sì, non lo sto vendendo. Era in vendita ma l'ho tolto. C'hai l'87, c'hai. Lo so. C'ho l'87 e il 48. Cappa. Allora l'87, tu stai usando l'87 adesso, il 48. No, l'87, il 48 è moribondo. Cappa. L'87, io me lo ricordo, era un pochettino secco di Smitter, era. Però già va bene, dai, è perfetto. Già funge, tu, funge. Gava. Mi, ma più freddi, hai zitto. Uia, cazzo, oggi mi posso una taragadriglia, questo è l'Intec 550 Power. Ottimo, va bene. Non tocchese. A volte mi sembra che ti arrivavo intorno ai 9:10, se non mi ricordo, vero? Se non mi ricordo male. Ehi, quando eri attaccato? Però molto di meno. Non arrivavi così, no, Antu. Così non arrivavi, e ti ricordo che c'avevi segnale, ma la radio era sempre bassa. Cappa, è sempre chi c'è la radio, me. Con l'antenna come ci deve, pompa. Chi comanda è sempre l'antenna. Cappa, però ho scoperto anche un'altra cosa, che molti in certe direzioni non è che da una mantova, cioè da una mantova sì, c'è ma ci cozzati, a questa, cioè in certi punti siamo quasi uguali, dai, non è che cambi tanta roba, cioè in certi punti, dai, poi ce la metti in alto, secondo me si equivalgono più o meno, non c'è tanta differenza, amici. Vabbè, io stavo usando sempre quella Ringo, che lo stesso era un quarto d'onda, con la 58 che c'ho adesso, no, qualcosina di differenza già c'era sia in ricezione che in trasmissione. Sì, è vero. Ma tu cosa c'è, quella BT o quella fascetta c'hai? Che modello hai? A fascetta. fascette dovrebbe essere, Antu. Ehi, a fascette, cosa me ne metto più? No, no, a fascette. Io ho il modello quello che c'è alle vite. No, a vite, Antu. Ma stai parlando dell'energy? No, no, della Ringo. La Ringo è a vite. Certo. Ma vedendo la stai? No, no, discordatela assieme. Sì, quella vite è migliore di quella. Di quella cosa, come si dice? Di quella fascetta. Quella lì bisogna stare più attenti sulla rotmetria. È un pochettino. Poi mi si è staccato un pezzo, ma vabbè, già l'attacco, non è quello il problema. È più grossa, però quella con le viti è migliore. Cioè, secondo il mio parere, è più giusta come antenna. È più fine, però più giusta. Cava, cava, poi l'altro problema è il piantone di sotto, Antu, che se ne scendeva. Cosa ti faceva? Antu, stavo parlando col piccolino qua. No, che hai visto che lì c'ha un rivetto già, giù in basso. Sì, quello mi ha fatto girare le palle a me. Quello lì mi ha dato problemi. Un capo non è a rivetto questa. Questa c'ha le viti autofilentanti bloccanti. Capa. Se no se ne scende giù lì, capito? Poi è un casino. Perché devi sistemare. Ma rimetti la vite e non se ne va da nessuna parte. Capo, adesso devo mettere una vite autofilettante. Hanno messo quel rivetto bastardo, hanno messo su. Dalla parte dopo il coso nero. Hanno messo quel rivetto che non serve a niente. Adesso sotto c'è la vite. Sopra perché c'è un gatto di goglio. Ma perché non te lo metti negli occhi? Cioè, la fabbrica. Adesso potevano mettere la vite come questa. Questa qua c'ha tutti e due viti. Questa è ben fissata. Adesso mi sono preso uno spavento l'altro giorno. Ho detto, no, bogani tutto. Cavagava. Sì, conferma. Che poi è un casino. Sono quelli viti. Meno male hai fatto prima. Se no magari si scende durante l'inverno e io mi accello poi. Questa è nata così. Cosa? Questa è nata con le viti. Meno male, non ho capito allora. No, quella che facevano 10 anni fa è nata con le viti. Chi dà un giambata? Cavagava. Anda benemeda. Secondo me è anche migliore di ricezione questa, perché io la gente la sento di più, la sento. Vabbè che quella là aveva quel problema e quindi non lo posso sapere certamente. Questa va di più, cazzo oscillava l'antenna. Un casino sui segnali. Cazzo mi dava, andava a 2 stazionari, qualche volta anche a 5. Ogni amare che ti venga. E quando piove, Antu, ti salgono le stazionali con la Ringo? Con questa ho provato a buttare acqua poco poco. Sì, vabbè, acqua, quando diluvia. Gli ho buttato una bottiglia d'acqua nel coso, ma un po' appena salgono, non ti credere che... Non più di tanto. Sì, anche la mia faceva così. Ma appena, non è che salgono eccessivamente, Se magari da 1 euro ti salgono adesso 1,2, 1,3, non di più. Così, chi da era pure oltre l'1,5 l'altra? Cappa di Rosmet, aspetta un secondo, Antu. Cappami, fra un po' chiuso perché oggi devo andare a vedere la TV. Già va bene. Io ho appena acceso la tassica, era qui che stavo guardando questo 48 e poi ho sentito a te. Che da. Vabbè Antu, dai, allora io ti saluto che devo fare una cosetta veloce qua e ce l'ascoltiamo le prossimine se coincide. Cappa dai Daniele, ce la risentiamo. Alle prossimine. Così è stasera, vabbè. Ok, ciao. Ehi Antu, dai, buona carica alle prossime, dai. Ciao. Ciao. Sono in fare di niente, non fa nulla di fa. E me già, Gianni e Bloffè. Boh. E tu, e me? Meno male, me. C'è una voce quella da Gianni e Bloffè, una amplificazione. E tanto, per nessuno, mi sono appena arrivato io. No, anch'io, stavo facendo roba, ho acceso adesso. Stavo sistemando delle cose qua. Che devo spedire alcune cose, stavo sistemando, impacchettando, facendo, stavo ascoltando prima, poi sono spariti, c'era qualcuno, però non mi ricordo neanche chi fosse, però c'era qualcuno che stava parlando. Stasera alle 10:23. Ah sì, c'era già il doppio room con questo Bruno. Ah, non lo so, io ero sempre qui in questo canale. Cos'è questo? Sì, il 10. Mi è arrivato il vetrino nuovo, ci stai ricordando, l'altra volta non mi è caduto il telefono, si è spaccato il vetro, adesso lo sto sollevando per essere rotto quello di sotto. Mamma mia, sbudimenti, lascia vedere. Uia mamma, uia, lascia vedere. Cazzo, sono andato in calcio d'angolo, mi sono, mamma mia, ma qua veniva il vetro, cioè se ne è spaccato il vetro suo. Meno male, dai. Cazzo, ero preoccupato. Hai visto? Mai preoccuparsi troppo. Beh, in definitiva, direttamente, tanto per dire. Puramente, capita. Allora, tu, ti volevo dire una cosa, no? Io sono un assillo, lo sai, no? Te la posso fare una domanda? No, mica sei un assillo, tu sei solo ovviamente di coglione, dimmi. Te ne faccio, ma fa culo, froscio. E vabbè, sarò anche froscio, dimmi. Hai capito? No, allora, tu, un amico mi ha portato, un carissimo mio amico di vecchia data, quello televisore 55 pollici, dalla Samsung, 2 anni e mezzo di vita, cioè. Siccome sono di quelli che non hanno viti nel pannello, cioè dietro il tappo, no? Ed è tutto in casso. Lo so, ci vorrebbero delle chiavettine, come nei telefoni. Vabbè, comunque sono riuscito ad aprirlo, ti spiego. Allora, se io lo accendo, lampeggia, ci sei? Però se io ne stacco il gavetto dall'alimentazione dei LED, il televisore si sente ma non si vede. Sicuramente c'è qualcosa nei LED in corto. Infatti io lui te l'ho detto, io te l'ho aperto, infatti io ho detto, guarda, non lo dai neanche a me. Vabbè, niente. Casino, la staccare il pannello da solo non fa. Potrebbe essere anche qualche LED interrotto in qualche barra che è andato in corto e quindi lo manda in protezione, oppure potrebbe essere anche l'alimentatore del LED, che dà la tensione LED, che come prova il carico va in protezione. Ma infatti già va a finire all'autoparco. Tu almeno che provalo, prova gli LED, non ce l'hai tu l'alimentatorino a parte per provare i LED? Ma tu devo sempre levare il pannello LCD da sopra per provare i LED, come faccio? I LED li provi direttamente dalla spinetta, la stacchi dal circuito stampato e li alimenti. Ma non so che tensione ci vuole, io ho la 20... Allora, la 28, 28, massimo 28 mi dà volt. Da 28 a 40 volt vanno. Prova, in ogni caso non te li accende. Oppure quando ti capita un televisore che magari c'è il pannello rotto, che funziona, ti lasci le schede attaccate e utilizzi quello lì come prova, capito? E anche così potrei fare. No, ma guarda, sono belli perché li vedi, lo vedi grande, ma sono barrasoni, cazzo. Sono barrasoni, tu. È così è che funziona. Ma io alla fine, sai com'è, no? Magari uno, un tecnico bravo come sei tu, magari riesce a aggiustarlo. Se si guarda lo apre e via, però uno come me, poi è un casino, non ce la faremo con tu quando attaccare il pannello perché lo rompi. Sì, già si stacca il pannello lungo, però ripeto, ci vuole talmente tanto di quel tempo, e tanto di quell'impegno, e tanto di quella cosa che poi, tra impegno e ricambi, non ne vale la pena mai. Ma infatti io ho detto, porto la tecnica via, no? E non te siamo lì a girare la lunga. Vabbè, comunque andava a finire l'autoparco, non giusta a mattare la meluzza del bito. Infatti lui ha detto, io lo do a te, e lo dalla a me, cazzo. Guardi, quando lo stavo aprendo, tanto... E ho detto, qua si spacca tutto, lui straccia, poi gli ho mandato un messaggio per vedere un po' cosa voleva fare, siccome la moglie, quanto pare della moglie, cioè non so, gli ha rotto le balle, ah sì, ma non è che non l'ho rotto, se no, e tu mi hai detto, Francia, aspetta, se si rompe pazienza, cioè, pure muoviti da cose, due, è come se io ti do una cosa, non tu, prova, se si rompe pazienza, te lo dico subito, non è che ti faccio, poi ti porto un cazzettone. Ehi vabbè, ma anche questa straccia, straccia, cazzo, se poi lo stracci e fai danno, anche se lo ripari, poi cosa c'è? Un televisore truccato, fascettato, scocciato. Ehi vabbè, tanto, vabbè, pazienza. Non so cosa di. Se fosse stato un 40, tanto 4, dice di strato, 55, pensavo un 65 pollici, ma cazzo fai a ripararlo? Io qua c'ho il 55 in sala. E il 45 in camera da letto, durato un poco. Ma come cazzo fa a riparare un 70? Io ho visto uno scatolone della Samsung 75 pollici. Io mi domando e dico, come cazzo fa a ripararlo? Non ripari, perché i tecnici che riparano quelle cose lì hanno gli accessori, che hanno praticamente il banco, no? Dove ci sono delle graffette, tipo dei morsettini, che lo prendono per i lati, no? E dopo questo affare può girare, ruotare. E io li ho visti, perché ho fatto un corso tempo fa, è una cosa normalissima, perché l'attrezzatura a riparare è una stronzata. Però ripeto, chi ti dà queste cose da fare così, che ti dice il tratta, vuol dire che non vuole spendere, altrimenti l'avrebbe portato da un tecnico. No, anzi, per quello, guarda, io tipo che sta bene di soldi. Mi ha detto che tipo anche il disturbo, quello che hai fatto, ho detto non voglio niente, non mi interessa. Ci mancherebbe, non sono di quelli, anzi, l'avrei detto, no. È che lui voleva far lavorare a me, tutto qua. Lo so, lui voleva far lavorare a te, però entro i limiti del possibile. Anche io molte volte, magari se non ho voglia di cambiarmi le pastiglie alla macchina, c'ho un amico che lo fa, gliela porto. Però se devo fare cose, cazzo, non è che posso dare la macchina in mano ai cannibali, no? Un esempio. Sì, ma guarda, sono pienamente d'accordo con te, lo so. Cosa vuoi che ti dica? Non lo so cosa dire, ripeto, come ti ho detto prima, è come se lo do a te e ti dico fai quello altro, vedi quello che riesci a fare, poi lo spacchi, cazzo, ti faccio il cazzettone, no, va bene, devi essere sincero da prima, chiaro soprattutto, e dire le cose come stanno. Infatti lui mi ha detto spacca, c'è ancora i messaggi, ma ormai non li ho cancellati, giusto per farglielo ricordare, però questo è un mio carissimo amico di vecchia data, ma ti parlo anni 80, no? Però c'avevo 6 anni, fai anni 90, dai. Ti capisco, Lu, lo so, queste situazioni capitano anche a me, però ripeto, io non l'avrei neanche preso, perché comunque dove me lo metto? È inutile che vi prendo un affare del genere, che non riuscire neanche a farlo passare qui giù dove sono adesso, capito? Perché poi io tra una cosa e l'altra la porta della cantina che dava verso l'esterno l'ho chiusa e quindi posso entrare solo da su. È come di sviluppare una cosa del genere per rischiare. Ma infatti, vabbè. Quello che ti dica, non so cosa dire. Io sono stato chiaro dall'inizio, poi. Tutto qua. Passo piano, mi pulisco bene il telefono, speriamo di non criballo questa voce, altrimenti mi sicuro tre balle, di comprare questi vetri, questo è qua il quinto che compro, già 25 euro ho speso. E anche io ce l'ho sempre rotto nel mio, delle volte lo cambio e poi sempre fasciato, ma l'ultima volta l'ho rotto in tasca con le chiave. A me mi è caduto il giorno che sei venuto tu, se ti ricordi, e mi si è rotto. Sì, già me lo ricordo, no, a me l'ultima volta mi si è rotto, l'ho infilato in tasca, c'erano delle chiavi dentro, c'erano sia le chiavi della macchina che una auto, una 10, deve essere che ha e l'ha sbeccato in un lato. Oh, non lo so, si è rotto anche sotto, non l'ho tolto neanche. E nel caso c'è l'altro che abbiamo sistemato? Sì, è sempre dentro la scatola, lui. Ma intanto accendilo pronto. A me lo siete zeni, lui, come no? Ti c'è l'altro? No, sto aspettando che ritorni Michela, ho preso la pizza da Danilo. Ah, già arrivata? No, tra un po' arriva, te l'ho detto che io il mercoledì prendo sempre la pizza da Danilo. Ehi, andava, già sono qua a fare orario, poi Bizzicocco, oggi mi sei messo in moto i calcoli a cistifrene, infatti mi fa male cazzo oggi. No, ho toccato solo acqua e basta, boh, finito. Per il momento niente alcol, zero, manco birra, nulla, vino, nulla, nulla. C'ho il dolore fisso, è fastidioso, Non è che mi butta, cioè mi fa piegare in due, però secondo me sta andando peggiorando. Poi in questo periodo, se stai male, ti conviene stare riguardato, perché anche se vai in ospedale neanche ti cagano, no? Anche io non sto bevendo niente perché devo fare gli esami del sangue, che dal prossimo mese entro a lavorare per un'altra ditta. Ah, quindi così anche. Trovato nuovo cosa, nuovo lavoro? Questa ditta qui, lui mi garantisce solo lavoro così. Mi ha detto, il lavoro grosso lo abbiamo fatto, sì, faremo altre cose, però io devo vivere. Mi ha detto che mi lasciava qualche cosa da fare, sì. E quindi per la mattina mi sono cercato un altro lavoro, vado a lavorare in una gastronomia. E tu, si vuole giubare? Ma dove? A fare polli, arrosto, vado, melanzane. La mattina lavoro lì e poi la sera, intanto io la maggior parte delle programmazioni le faccio a casa, degli impianti di videosorveglianza e poi le installazioni, ma ho libera mano, capito? Ah, certo, certo. Sì, vabbè, bisogna fare visto che si può fare. Oggi mi ha chiamato una parente di mia cognata, là. Ci sapevo piazzare l'autoradio. E gli ho detto di sì, è venuta con questa amica sua, l'autoradio l'ha già piazzato, sono di quegli autoradio, quelli corti, tanto quelli che c'hanno, non c'hanno CD, me, e c'hanno l'ingresso AUX, l'ingresso USB e la micro SD. Sì, ho capito, quelli senza lettore CD, DVD, CD, udera. Praticamente cosa ha fatto il figlio? Gli ha collegato i fili direttamente nastrati, così, giallo con giallo, rosso con rosso, nero con nero, e blu con blu, e poi tutti quello delle casse. E la sera non accendeva. Magari c'era il sottochiave da mettere. No, se indovini perché non accendeva. Se indovino perché non accendeva. Si aveva collegato l'alimentazione, non accendeva. Se non era il sottochiave non so cosa dirti. Non mi viene in mente niente adesso. No, se io ti dico giallo con giallo, rosso con rosso, nero con nero e blu con blu. Giallo con giallo, rosso con rosso, nero con nero e blu con blu. E non accende. E non accende. Che vuol dire che magari erano invertiti o la macchina c'ha i contatti invertiti? No. Dai, ti aiuto. Anzi, ti aiuto, te lo dico. Praticamente devi accoppiare il rosso con il giallo assieme. I due gialli e i due rossi. Perché sono due e due, no? Una volta che lo tagli, vabbè. Sempre uno e uno, comunque. E se no non parte. E allora vuol dire che la macchina non ce l'ha il sottochiave. A quanto pare no. No, perché è diretta l'alimentazione. Allora sì, chiaramente, se non ha l'alimentazione che gli arriva quando gira il quadro, è ovvio che li devi unire, ma siccome mi ha detto tu li hai uniti, io pensavo che là ce l'avesse il sottochiave, quindi era un problema inerente a quello che ti avevo detto. Sì, sì, sì. Infatti il figlio ha detto che un ragazzo di 20-25 anni mi pare. Niente, ha fatto i collegamenti e tanto 30 euro ci vuole giubare. Beh, hai visto ad esempio le macchine che ho io? Allora, quella mia, quella più nuova, quella che rimane più scura, quella lì è il sottochiave, no? Quella di mia moglie invece, sempre la stessa macchina, uguale identica, di 1-2 anni prima, forse 3 anni prima, quella sottochiave non ce l'ha e quindi la radio va collegata in maniera diversa. Tant'è vero che io l'avevo tolto l'autoradio dalla mia macchina per metterla lì e non funzionava. Chiesa. Vabbè, succede purtroppo a tutti. Succedi, vabbè. Non dice una cavani bene, perché io ho provato, ero lì un po' così, dico, perché ho pensato. esatto, mi sono controllato la alimentazione, la 12 arrivava tranquillamente, infatti penso ci fosse il fusibile bruciato. E niente, poi ho visto che, come si dice, che, ripeto, attenzione, arrivava e ho dovuto fare quel lavoro lì. Dunque adesso è a posto, era contentissimo perché era da un po' di tempo senza autoradio in macchina. Queste donne poi si accontentano di poco. Era dell'autoradio. E così dizzini. Davvero, il mio pallolo. E allora, come mia moglie, no? Prima gli ho messo l'autoradio in macchina con il pennino, guido, rastro, guidastro. Poi un giorno si è seduta nella mia, c'è il vavoce e tutto. No, no, già vado con la tua a lavorare, ma mulla durata me. Hai visto? E vabbè, intanto adesso la cambio una, quindi. Macchina nuova? No, nuova, nuova, no. Però mi fanno il contratto, mi compro qualcosa di... Voglio prendere qualcosa di ibrido. Ah, ho capito. Beh, non sarebbe male l'idea. Ah, io per il momento non posso prendere né ibrido, né gas, né gasolio, né benzina. No, vabbè, queste che abbiamo noi consumano poco, che hanno l'impianto GPL, però, ripeto, se mi fanno un contratto buono, se mi prendono sempre, adesso ho fatto il colloquio, ma ce la dovrebbe essere così, se mi prendono, voglio prendermi un ibrido che comunque io per andare a lavorare posso andare elettrico qui a Sassari, non sono molto lontano da qua, devo andare solo fino a Bresaniera. Poi chiaramente per fare gli altri interventi uso il gas, tanto a me la ditta mi paga le spese di viaggio, capito? Ah, cavolo, vabbè, tu ci metto sul fuoco e ti prendo, a occhi chiusi, pure, che non sai fare il tuo lavoro. Poi non so che tipo di lavoro che sia, ma sempre sicuramente è roba di elettronica, no? No, hai compreso, lui, devo andare a fare gastronomia, fare roba da mangiare. Ah, proprio definitivo, non ne fai più poi lavori tu? Sì, solo la sera, lavoro lì la mattina. La sera ho sempre il lavoro con loro, loro mi garantiscono sempre quel tot, però mi hanno detto che tutta la giornata non me la possono pagare, perché comunque c'è il problema, adesso non sto provando, del Covid, mi hanno detto c'è un rallentamento del lavoro, delle spedizioni, anche loro sono incasinati, e quindi mi hanno garantito metà giornata, io l'altra metà giornata me la devo occupare, e giù roba da bagaglio. Facciamo roba da bagaglio di buru campà, No, vabbè, a campare buru campà con mezza giornata di lavoro, mezza giornata di lavoro, cioè loro mezzo stipendio me lo danno, non è quello. Sarei potuto campare lo stesso, non mi sono questione di mangiare, che comunque ci sono dei pagamenti, delle scadenze, delle cose, capito? E quindi ho bisogno di lavorare anche la mattina, cioè non posso lavorare 4 ore al giorno. Vabbè, comunque sia, bisogna sempre lavorare, non è che bisogna travagliare. È un casino, per carità, è un casino questo lavoro. Meno male che già qualcosina già sta facendo, no? Qualcosina su mane, come ti dizia Ghiddu, già non mi tiro indietro, poi quello che esce capita che magari, vabbè, con la schiena non ce la faccio, però si possa anche provare, vabbè, qualche giornata in cantiere, così intanto mi chiamano, magari adesso a bucare un po' di garraggio. Ma io ho anche un laboratorio di ortieri con cui collaboro, che ogni tanto mi manda delle cose da ripararli, che gliele riparo, cioè non è che ciò cos'è sta vannuta, però ripeto, quando sei assicurato è una cosa diversa. La musica cambia. Ma io ho bisogno di certezza, cioè se poi per carità mi mandano delle cose da riparare quelli di ortieri, io vuol dire che quella notte rimarrò sveglio, però la mattina devo avere quelle 4 ore assicurato dove vado, lavoro. Un amico mi ha chiesto se ci volevo andare a lavorare con lui, gli ho detto vabbè, ne sai, ti sai destreggiare nei fornelli, sì, va bene. Va bene, andare altro, cioè interessante che ti dia il dindino ogni mese. Vabbè, il contratto regolare, assicurato tutto, se no manco quando. Mi ha già mandato via email il contratto, mi ha detto fallo vedere alla commercialista. Sant'Arrangeli, le giornate come sono, da lunedì? No, praticamente ho un riposo settimanale e poi lavoro tutti i giorni 4 ore la mattina, dalle 9 all'1. Manca la domenica? Sì, soprattutto la domenica, perché comunque è così. Poi siamo dei turni, chiaramente, non è che lavorerò tutte le domeniche, però la domenica è aperta e quindi si lavora. E tanti siete? Ma per il momento siamo in 6, mi sembra. Ah, vabbè. Purtroppo non venuta. Tu, infatti tu, ti puoi mettere, perché è un casino, devi pagare le tasse, tutto quanto. Per quanto riguarda quello che stai facendo ultimamente, No, ma quello che sto facendo ultimamente in ogni caso non potrei, cioè per fare una cosa del genere, io comunque tratto per queste persone, per questa ditte, che trattano solo questo tipo di marchio, quindi dovrei praticamente aprire una ditta, garantirgli il marchio, io non posso garantirgli il marchio perché non è che tu puoi pagare le tasse per garantire a una persona quel marchio, del tipo io, che ne so, riparo solo televisori Sony, non è che lo posso fare così, capito? Adesso lo faccio per loro perché loro comunque hanno la priorità su questo marchio, ma hanno anche altri marchi, però non è che io posso pagare già se va per un marchio solo, capito? Quindi no, non mi interessa poi, e poi lo sto invecchiando, voglio di stare avanti e indietro non ne ho più. Beh certo, gli anni passano, quanti ne hai, 50? Ne compio 49 fra un paio di giorni. Io ne faccio 46 a dicembre, anche io ci sono vicino. Io non so, te quanti oggi? Fra 3 giorni ne faccio 49. Allora, fra oggi è 20. Il 28 li fai così, Sì, il 28 ne compio 49. San Fausta di sabato, tu li fai di sabato, io li faccio di mercoledì 46. È la verità, lui li fa delle torrenti, attenti a fare, non ne ho più voglia. Se riesco a ingranare bene in questo ambiente, mi faccio quelle mie ore e poi la sera posso fare il resto, capito? Tanto io mi programmo le centraline a casa col computer, poi quando vado faccio 4 installazioni, non è che ci metto molto tempo, ci posso andare anche di sabato, il giorno che ho libero, capito? Oppure posso chiedere un giorno di permesso, cioè ho flessibilità, Ah, e beh certo. Un casino. Ui, ragazzi, mamma mia. Bisogna pigliarli sui due. Oh, vabbè, tu sei continuato a fare televisione, tu sei andato a una vivata addirittura. Lo so, ma mi sono stancato perché comunque quando ero giù in campagna avevo più spazio, mi veniva bene perché comunque arrivavo con la macchina, scaricavo lì, entravo, il laboratorio era grande, poi quando mi sono trasferito qui a casa dovevo fare scale, guido, l'altro, molte volte non trovo il parcheggio davanti, devi dire qualche cosa appresso, la gente che ti guarda, comunque anche quelli del palazzo di fronte, quindi mai cosa fa dentro i shooting di TV. Vabbè, comunque qualche soldino te lo sei fatto. Qualche soldino. Io la maggior parte delle cose che ho acquistato e che ho, le ho fatte da quello, perché sempre quello ho fatto, vabbè. Ho lavorato anche in cantiere, ho fatto anche impianti elettrici, però tutta l'attrezzatura da laboratorio che ho, Trapani e anche tutte quante le altre cose, abitatorie, tutta roba che ho comprato comunque facendo quel lavoro. Ho capito. Vabbè, qua se si tratta di, cosa adesso, di televisori magari 32, massimo 40, va bene, ci sta. Ripari connettori di antenna, telefono 2-3 al giorno e ti vado a durare. Sì, quello sì. Beh, li avevo anche ordinati io tempo fa, un po' di connettori di antenna. Mi erano arrivati, li ho messi da qualche parte e non so neanche dove sono. Invece io li ho recuperati dalle schede vecchie. Li ho staccati giusti, bene, perfetti, vanno benissimo. E quando mi servo uso quelli, sono più nuovi. Beh, io prima li toglievo dai decoder. Io li ho levati dalle schede, qualcuno dal decoder. Ma se ne quale compro? Dobbiamo comprare faccio appena mi fa la, come si chiama? Il tipo del B, appena mi fa la, il rimborso, mi ordino quelle bobine, quelle tre bobine da 100 grammi. No, io mi prendo quella da mezzo chilo giù, da Fabio, 29 euro e andava bene. E altro usiamo i negozi da mezzo chilo, già non lo uso un bel, capito? Lo uso, ma alla fine, guarda, tu conta, quello che ho adesso me l'avevo dato Torre Chopin, e ci stava buttando un po' di roba, c'era questa bustina, questo vostro stagno buttato così, ci stava buttando tutto, stagno buono, mi ha detto, infatti l'ho utilizzato, è veramente ultimo quello stagno. Cosa ho fatto? Ho preso, l'ho tutto piegato bene, ho messo in un'altra bustina, e ti parlo di, forse 2 anni fa, mi l'ha dato, 3 anni fa, e l'ho quasi finito, forse, ma ti posso dire, 10 centimetri me ne è rimasto. Ehi, te l'ho detto, Lu, anche io ne ho una matassa di quello Philips da mezzo chilo che mi è caduta intera, si è tutta spaccata la plastica e che lui si è tutto incasinato. Sto usando quello, ma molte volte mi intrippo, mi lungavo, ha detto adesso me lo compro nuovo. E vedo, peccato quello, usatelo tanto a sillati, ti fai gli spezzoni e te lo fai a pezzi, piano piano, lo recuperi. Lo so, Lu, ma quando fai 100.000 cose e torni a casa, devi riparare un qualcosa, sei già stracco, non è che per buonia riparare lo stagno. Ah, beh, certo. Ehi, ehi, lo so, che casino. Adesso vediamo un po', perché le CD che gli ho spedito gli è già arrivato, gli ha consegnato le poste. Adesso aspettiamo il rimborso, adesso controllo a vedere. Davvero? Chi è? Buonasera. Chi è Daniele? Mi è bella Daniele. E beh, la ditta? Ha fallito. Avanti a tu. Ciao Daniele. Comunque lui un po' te lo do io, se lo vuoi, mi. Di stagno, te lo sbroglieggi. Vabbè, tanto me la di comparà alla fine. Peccato quello che c'era, un peccato. Io non mi sarei assillato. Prima di comparare non mi sarei assillato, vera voce. Se ne hai un bue che te lo fa fare e compratene un'altra. Ti assilli però piano. Se non lo vuoi fare, lo porti a me, te li faccio io le bobine. Cosa? Mi assillo io, te le faccio quello che riesco a fare, te lo metto in una busta. Sì, ma ti sei completo, lo prendi. Ehi, quando vengo mi prendo quell'affare lì, te lo porto un po', che intanto, ripeto, ce ne ho alcuni malloputti che avevo fatto, già te lo porto, non te ne comprare, già te lo do io. Te ne avevo un bel di pezzi, fatti piegati, e ti posso dire un ottimo stagno, con la pasta assata che c'era dentro. Sì, avanti Daniele, beh. Ehi, Arugariello. Stavo cercando io il finale di questo 48, se lo trovavo, buh. Dani, io l'ho controllato perché non ho avuto tempo, c'ho questo alla 34, ma non penso che ci sia il 19.69 sotto, No, questo è un 19.45 mi pare. Mi ha detto che lo santo, che cosa montano il 48? Il 48 in teoria monta il 2078, poi se lo modifichi monta il 1969, io questo che dice lui non l'ho mai sentito. Allora è 2078, mi sa che quel Misand che c'ho io, però sai cos'è Daniele? Che questo baracchino qua l'avevo un mezzo incasinato, sono sincero, mi sono messo così, l'ho messo qualche pista, più di una pista è saltata, forse perché l'ho saltato troppo, ma ti parlo di qualche anno fa, non adesso. Se non sbaglio mi sa che quel finale è mezzo andato, perché mi dà un watt. Gaba, no, questo è 19.45 la Mitsubishi. Oh, non l'ho mai sentito io, comunque. No, Anto, l'ho trovato anche su internet, costa una 20 euro mi pare. Scusa, metti un 19.69 che è uguale. Gaba. Lo stavo cercando. Su internet non devo ordinare. Aspetta un attimo che guardo nel databook. Un secondo solo. Gaba. E quindi Lugari è? Allora, aspetta un attimino. Sai che attacco pure io l'ho modificato, però però aspetta un attimino, dai, se aspetti te ne vai subito, quello attacco lo faccio girare pure io. Ehi, sono qua, dai. Ma come stai fischiando? Perché ci ho acceso anche l'altro, guarda adesso. Adesso va bene, finché ci metto un attimo, metto le cuffie, se no mi innesca a me. Anda bene, veda. Come hai detto, ok, Daniele? Aspetta che lo riguardo, 19.45. Hai fatto Lu? Lu? Lu Garie? Guarda adesso, Daniele. Adesso ci sei, prima non stavi uscendo. C'ho il piede messo male, dai. Cava, cava, già funge sempre. Sei nuovo sceso. Sì, ci sei? Sì, Antù. Allora puoi metterci un 2SC 1817, un 1969 come ti avevo detto io, un 2050 o un 2098. Aspetta che me le segno queste sigle, Antù. Ripeti? Allora, 2SC 1817. 2SC? 2S, come 2 Sassari C. Sì, 2 Savona Como, poi? 1817. Ok, poi? Poi sempre 2 Savona Como, 1969. Poi? Poi 2050, sempre 2 Savona Como. Ok, poi? E 2098. E poi chiaramente il... anche il 3133 ci puoi mettere. Ok, perfetto, adesso mi ricerco dopo. E vabbè, cosa ne esce fuori? Ma il 1969 è comune, il finale che montava Saturn Echo, il Pluto e tutti quanti le altre radio che comunque non erano omologate. Kappa kappa. Andà bene Meda, è che qua Sassi non lo vende nessuno, no? Tutti questi Amaradam. Non lo so, perché non è a Fusaro? Qua non ci sono ancora andato, la verità si ricca. E vedi un po', se non è a Fusaro oggi GPC non ne ha nessuno. Nel senso che ci sono solo loro due. Eia eia. Perché mi scoccio ordinarli da internet, cavolo, ce l'abbiamo qua, i negozi me li devo ordinare da internet, boh. Lo so, però non, se non ne hanno dove l'ordine. Per forza lì. Allora metti ricca. Speggio per loro. Positivo, caparrocchio, fratello. Vabbè, se poi non lo trovi fammi sapere che te lo recupero io. Ehi, Antù. Andà bene meno, grazie per adesso. Riprendi Lucaria e tu col motoscafo. Certo, motoscafo. Già sta andando, sì. Già funge. Io pensavo che andasse bene, il 2078, 1969, altro lo riconosco. Cava, cava. No, perché poco fa mi sono imbarcato in questo sito che parlava in inglese, boh. E la verità sì che stavo cercando questo finale qua, no, quello cos'è, 19.45. E mi ha passato pure una tabella dove potevi compilare per cercare gli equivalenti. E c'è compilato in automatico, però non mi ha trovato nessun equivalente. Beh, ho capito. Casino, sto cazzo di finale, ma... Poi qua non si trova niente, ma... Lo so, Lu, quello è ancora più brutto. Qua, un casino, un casino. Sì, è un casino, sì. Antonio Riserva, capo. Sì, glielo dati l'equivalente, comunque. Se, ripeto, già, se non li trovi... O Daniele. Non so, Daniele o Gianni, sì. Daniele. Daniele, se non li trovi, fammelo sapere che te lo recupero io uno. Ma anda bene, tanto. No problema. Adesso domani, quando è, mi attrinzo e ricerco. Va bene. E me sta pizzando. Come? Sta pizzando. Non ti capiscono loro, chi fai il secco? Ho detto, questa pizza, aspetta, questa pizza non è arrivata. La pizza arriva quando arriva mia moglie, Lu. Tra 10 minuti più o meno, dai. Neanche, perché sto uscendo adesso. Ho capito. Beh, che più vuoi fa? Sono tutti in agitazione lì. Non dammi il figlio. Antù, un casino, lì è un casino. Aspetta. In 10 giorni ha cambiato 4 parti. E cosa vuoi che sia? Fate giusto, stai attento, niente ti manda. Dice purtroppo siamo tutti in trincea. Tampone è fatto l'anno, sì. Sì. Sì, stamattina uno ogni settimana ne fanno loro. Capito, perché se te lo porta a casa è un casino. Vabbè, cosa c'entra? A casa te lo può portare chiunque lui, non è che per forza, anzi, lei è più controllata di molti altri. Quello già è vero. Infatti io molte volte quando esce mia figlia dico, stai attenta con chi vai, mi raccomando, né abbracci, né baci, né chi di uno e l'altro. Per esempio, padre di Daniele, a quanto pare, dice tutto per il Covid, così dicono, vero Daniele? Lucaria, quello è sotto l'innesco. Capito? Che ha poi riacceso tutte le patologie che aveva dall'anno scorso. Mi sa che Maradona è morto. Vabbè, ma io sono tanto dove che si è tirato, non sa il Covid che l'ha ammazzato. Infatti se il Covid l'ha ammazzato, quella gocca. Tu hai ammazzato il Covid. Allora il Covid. Non ce n'è. Oh, io è un problema, La gente scherza, non esiste, cazzo non esiste. Vabbè, io l'ho fatto un mese fa, il tampone. Perché stavo lavorando per una ditta, dovevo lavorare in un posto comunque dove c'erano altre persone e quindi me l'hanno fatto. Ma quello del naso? Sì, quello che ti ci ficcano fino alla gola. Ti sono buttato 2 dì a dolore di capo. Ma male fanno? No, non è che faccia male, ma io soffro di sinusiti, ho una deviazione anche del setto nasale, ma che ribaldo. Oh mia. Tanto gliel'avevo anche detto. Un casino, è un casino. Se tutto va bene, siamo morti. Vabbè, se tutto va bene moriremo tutti, chi prima, chi dopo. Purtroppo sì. A cazzo siamo furti, io non ho giù di ragazzo da nessuno. Prima di morire pongo fuoco a tutto. No, l'unica. Chi prendi, Daniele? Vecchi, vai. Già siamo messi bene, già. Ma come mai pensi che sia il finale bruciato? Perché Anto, se lo già fa, va in ricezione e poi quando schiaccio in trasmissione lo smitter scende a fondo scala. Al contrario. Sì, a fondo scala al contrario va, sì. Ma è modificato, c'ha schede, contro schede. Funziona solamente, lo sai cosa Anto, il beep. Fa il beep e poi l'ascolta, vabbè, quello funziona. Ricezione funziona, solamente che in trasmissione non dà neanche un watt, zero, attaccato al strumento non sale. No, ma secondo me non è il finale, comunque si è incasinato qualche relè di quelle schede che ci mettono dentro. E uno ne ho un relè a tu qui dentro adesso, ce l'ho aperto io. Cioè solamente il relettino della trasmissione, del PTT. Comunque c'è qualcosa, qualche diodo appresso qualcosa, perché difficilmente mi bruci un finale. Quelli resistono 20, 30 watt di continuo anche per ore e ore e ore. Per bruciarlo devi avere stazionari a 1000, devi uscire 20 minuti senza antenna. Vabbè, sto facendo le supposizioni, sto già mettendo, vedendo un po' le cose prima devo controllare bene, capito? Vabbè, il finale dopo che lo disaldi lo puoi controllare col test, se è buono è buono, se non è buono, non è buono. Se no pace bene e ci butto tutto. Sì, non è il caso di buttarci tutto, no? Sicuramente c'è da qualche parte l'inghippo e che quando fai 1000 modifiche basta che si interrompa qualcosa in qualche scheda, un transistor, un diodo, e che automaticamente non ti manda alimentazione alla scheda principale, quindi chiaramente non esce. Cavagava, no, ripeto, il beep funziona. Per l'ascolta funziona. Che non va in trasmissione. Lo so, il beep funziona, il parlascolta funziona perché sta funzionando la parte audio della bassa frequenza. Cava, sì. E il resto è che deve essere qualche interruzione a qualche parte. Che bisogna misurarla. Vedere un po'. Vabbè, dovresti provare prima di saldare il finale, misurarlo col test, e poi controllare se gli arriva la tensione al finale, se non arriva tensione al finale vai indietro, a ritroso. Certo che sì, Antu. E sarà fatto così. Che adesso mi ha rotto le balle questa radio. Ogni volta che la sto spenta, che la riaccendo c'è sempre una sincope. perché conviene lasciare stare come sono le radio. E se vuoi l'eco ti prendi un microfono con l'eco. E se vuoi watt ti prendi un lineare. Tutti i torti non c'è alla fine. Poi con questo le porti a 1,5 watt, 2 watt e sei buoni 300 watt in antenna. Io mi ricordo, cazzo, negli anni 93 mi facevo soldi a non finire con le modifiche a 120 canali nel Texas, perché le piazzavano, dopo uno o due mesi davano problemi e si risistemavano, ma lo sai quanti soldi mi sono fatto con quei baracchini? Perché bisogna lasciare originale, se vuoi 120 canali ti compareggio un 120 canale. E si conferma. E si conferma, io giusto per spot l'ho preso Ian tu. Ti capisco, sì, lo capisco, perché comunque quando li vedi tutti quanti belli modificati ti danno quella sensazione, poi te li fanno vedere che escono con 500 watt di picco e poi magari sono 5 watt di potenza e 20 di armonica in tutti gli altri canali. E infatti, io. Li prendi Lucarie, questo motoscafo parcheggiato l'hai. No. Mentre che voi state parlando mi stavo, ho delle piccole pellicine nella mano, nella mano. E questo qua da un po' non scendevo. Allora, questo qua, so che mi è successo da niente. Praticamente stavo cambiando il moquettone della, dove entra il microfono, perché giocava un po'. L'ho smontato, prima di smontarlo mi sono visto i fili come erano collegati, lo collego tutto quanto, poi non funzionava più il baracchino, non andava più, infatti l'aveva sistemato Fabrizio. Perché hanno sempre qualche inghippo questo radio, lui, non so, ma cosa, L'aveva sistemato lui. Vabbè, si torna a far sciaglia, rimani così, no, me la fotti nuda. Imparate. Questo l'ho comprato così, mica l'ho fatto modificare. Questa da, allora, questo qua è stato modificato nel, allora l'ho letto, dove era, 2016, 2015 mi pare. Anche questo lo sto usando io, modificato, non l'ho modificato io, Allora c'è di modifica. Questo qui c'ha la scheda Echo Colt, i watt non te lo dico, perché c'è il lineareto dietro, questo qui è il Magnum S45 HP. Le coccolte c'ha, come questo qua. Sì, ma non mi dire da dove si aziona, perché io un giorno l'ho chiuso, non l'ho più toccato. È una bella radio questa qui, niente di esorbitante, però funziona bene. Ora c'è San Video che sta cercando una radio tipo, come adesso, c'avevo il, cioè ce l'ha tuttora, so che è caduta in terra, gli si è rotta la scheda, gli si è scheggiata la parte del circuito, diciamo, si è spaccata. E un, se non mi ricordo che baracchino. Vabbè, come fa? Vabbè, mi ha mandato la foto, così lo vedi acceso. Non è che si veda molto bene, perché c'è trovato un groviglio di fili sopra, c'è un altro sotto, due a fianco, però è molto bella come radio questa. Cos'è? Stava cercando Savelio, Luca, mi sono distratto col telefono. Sono passato questo qua, va. Ecco qua. Guarda, sei a frusci. Adesso no, perché c'era l'altro acceso. No, adesso sei apostolo. Aspetta, questo cos'è? Tu, il Magnum Radio? Ma non è l'S9, tu? No, Magnum S45 HP. Ho capito. E quello è modificato? Sì, questo me l'hanno dato così, già modificato. C'ha tutto, ecco, colto, marano, dritto, no, poco di cose. Ma l'ascolta, andaggio bucato tutto, io ho chiuso tutto e l'ho lasciato così. Ho capito. Sì, da poco. STX, STX, SVR, CAL, MTX, MTX. Quanti canali c'ha quella? Questo qui è praticamente fino a 30 mega, da 25 a 30. La scarrella? Sì, ma poi dietro c'ha il linearone grosso. Questo esce 80 watt. È tuo? Ah? Sì, questo qui è mio. Me l'avevo dato troppo, lo spol chiude. Però non ho dato quell'amico mio di Ottieri per venderlo, ne hanno venduto tre e mi ha detto vabbè quello tienitelo tu. Ah, ho capito. Eh vabbè, poi ce la serva la tua moglie. Guarda Daniel, scusami, non ce n'è, ce l'ho 69. Oh Lu, dai, vi saluto che sta arrivando con la farella. Ciao Luca, ciao Daniele. Ciao, buona serata. Ciao Anto, buon proseguimento e buona carica. Riprendi Lu. Ehi Anto, alla prossima. Quando vuoi passare a prendere una roba là, fammelo sapere, ciao. Oh, guarda Daniele, ma non ce n'è, 69 sui B. No, io stavo guardando sul motore di ricerca. Mi ha pensato che sia apparso Franco Thor, una cosa del genere, può essere. Sto controllando, aspetta. No. 2SC, vedi, c'è anche funzionamento RF, transistor Toshiba. 2SC, 2098. Ah, c'è il 2098? Era su YouTube però, aspetta. Allora, su, presenta. Su elettronica allora questo qua si chiama 2SC 2SC ci hanno messo anche su elettronica generale grix.it forum, ah il forum quello lì, no no niente no no è allucinante, allucinante. Ah qua c'è qui Daniel, un 34S. Quanta canale? Ah no, questa eccezione è scaduta, non c'è più. Quelli si riprendono subito, si rimodificano, capito? Poi c'è questa Lafayette Springfield, 30 euro. Picchiacchio, 30 euro, così hai detto? Via, 30 euro. Aspetta, vediamo un po'. Guarda che si vede, ci mi pare, c'è lì. E allora, Lafayette Springfield. Invece trasmettitore radio CB 27 MHz più microfono Intec. 30 euro. Decido di spedire 40 euro, anche il feuga. Paghi solo il microfono alla fine. Di buone condizioni, normale, segni di usura, funziona ma ha problemi di modulazione in uscita. Lampade di tutto. No, quello della fianchi. Insomma, non avete ciclo, ma le trovano. Il 18-17, e cioè, non casualmente è questo. Ma non posso riesce a trovare, ma c'è troppo cura Antonio. Zero! Ma riesco a trovarlo, no? Non riesco a trovarlo. Aspetta, vado a fare una cosa. 31-33, e già c'era. Sto cercando prima, adesso metto il 18-17, Xavi. Cosa dice? Su eBay me l'ha trovato, adesso avevo già mirato il baro. No, non è più disponibile l'articolo, mi dice. Che casino, raga. Vabbè, già lo controllo bene, poi dove cavolo è successo di nuovo? Sono quello 20, qual è l'altro 20? 2098 o 2050 2133. Picchia, mi aggaggiamo di dosi, non è semplice trovarli. 3133 l'ho trovato, e che cavolo c'era? Bucca al pack, chi ne ha insegnato su? Picchia, che appunto di casino è. Non parla neanche in italiano. La gente va a finire, vediamo. Allora. Lasciamo te. 2133 mi hai detto. 3133. Cosa ha scritto? Finale o 2SC? Io ho scritto transistor 2SC. Io ho trovato i 69, 7 euro. Ma cinese? Ah, non li so, era quello shop d'oro. Non lo so Daniel. No, mi aspetta, adesso è entrato su Ipertronica. Me l'ha trovato, 13,50 euro. Allora, questo qua non è cinese, è italiano. Poi c'è quello Mitsubishi, C1969, 5,5 euro più 84 centesimi di spedizione.